Adesso parliamo di Roma, della sede di Femministe e Lesbiche qui a Via dei Volsci numero 22, che per l'ennesima volta, ormai innumerevoli sono state le volte negli anni, in particolare nel periodo di Capodanno c'è sempre un gran far west da quelle parti, insomma è stata attaccata più e più volte quest'anno, insomma. Allora, nella settimana dal 24 dicembre al 3 gennaio 2012, cinque attacchi esplosivi hanno colpito la sede di Femministe Lesbiche di Via dei Volsci 22. Attacchi che hanno danneggiato in maniera grave la porta e l'interno della sede. Sono 8 anni che questo genere di attacchi si ripetono durante le feste di fine anno, sempre più alla luce del sole e con modalità sempre più gravi. Attacchi intimidatori di matrice patriarcale, lesbofobica e fascista, che colpiscono un luogo che ha raccolto negli anni le molteplici esperienze politiche di donne lesbiche, che ha ospitato auto-organizzazione e saperi. È da molto tempo ormai che alle goliardate si è sostituito un tentativo di espulsione dalla via, in una fase in cui la speculazione immobiliare e l'esproprio di luoghi collettivi mette in ulteriore difficoltà la nostra presenza sulla strada. Ma le condizioni di difficoltà che attraversa questo territorio sono ormai note a tutte e a tutti. Di fronte a un contesto così difficile, siamo riuscite come femministe lesbiche a dare vita nella città a esperienze che hanno avuto momenti alti di visibilità e sono state un momento forte di crescita collettiva. Prendiamo forza dai nostri percorsi e diamo valore a quello che abbiamo costruito. Noi tutte sappiamo, per nostra esperienza e per quella delle altre, che sono molte le circostanze per le quali i movimenti e i percorsi collettivi attraversano momenti di forza e anche fasi di frammentazione e difficoltà. Per questo è importante che i luoghi liberati da alcune restino liberati per le altre, in modo da accogliere sempre il possibile delle esperienze politiche di tutte le femministe e le lesbiche. Quindi invitiamo tutti a partecipare a una serata di autofinanziamento dei lavori necessari al 22 e di presenza collettiva nella sede e nella strada, per ribadire con i nostri corpi che alle intimidazioni e ai tentativi di espulsione rispondiamo con la resistenza e la lotta. La porta scoppia, 22 resiste. La porta scoppia e ci scappa la riffa. Venerdì 13 dalle 20, cena esplosiva vegetariana e vegana al 22 di Via dei Volsci, naturalmente, e dalle 22 estrazione di scoppiettanti premi femministi. In Via dei Volsci 22, venerdì 13. Eh sì, allora questa è l'iniziativa perché ovviamente, insomma, a margine lo diciamo, i danni sono stati quest'anno particolarmente Forti, sì. forti, gravi e tra l'altro per fortuna nessuna era, diciamo, dentro la sede quando sono, diciamo, stati messi questi bomboni perché effettivamente tutto l'interno è abbastanza devastato. Sì, addirittura si è scrostato l'intonaco che, essendo uno stabile di epoca, era di un certo spessore, si vedono i mattoni a vista, la vernice schizzata su tutte le pareti, sul soffitto. È una situazione abbastanza Eh sì, deprimente. Ma c'è soprattutto stato. per la prima volta sono entrati dentro, questo non era mai successo. La sede è stata aperta e sono state tirate cose dentro. Eh sì, perché una volta aperto un varco piuttosto importante, chiaramente poi sì, si sono particolarmente accaniti. Del resto, lo ricordiamo, cioè ormai probabilmente noi viviamo in una condizione di assuefazione alla Certo. condizione di questo lato di strada, per cui non sembra neanche, cioè tra di noi riusciamo abbastanza rapidamente a gestire queste situazioni, ma insomma effettivamente è una condizione pesante stare lì, Certo. anche quando facciamo le iniziative lì davanti, le volte che capita, insomma, ecco, non mancano i cori da stadio, gli slogan fascisti e contro le lesbiche in particolare, ma insomma anche ovviamente contro le femministe, eccetera. Per cui questa è un po' la condizione quotidiana delle compagne che nonostante ciò continuano a entrare e a utilizzare questa sede, peraltro lo ricordiamo nel territorio romano è l'unica centrale, certo. È l'unica sede di separatista di femministe e lesbiche aperta a tutti, quindi non è una sede di partito, non è un circolo culturale, non è diciamo... Non appartiene a un collettivo preciso, ma è una sede aperta a tutte quelle che vogliono usarla, attraversare quello spazio e fare delle iniziative. Sì. Il problema è questo, che noi adesso abbiamo ripristinato la porta e ripristinato la chiusura della sede, ritirato sul muro perché anche il muro era stato buttato giù in parte vicino alla porta d'ingresso. Però il problema non è questo, cioè il problema non è di rimettere a posto le cose, di riparare i danni, di fare l'autofinanziamento per recuperare i soldi perduti. Il problema è squisitamente politico, sì. È di agibilità politica e di denuncia di una situazione che, su cui tutte e tutti dovrebbero un attimo riflettere, e infatti in questo senso dovremo portare fuori delle iniziative che decideremo, perché è proprio un problema di agibilità politica e di responsabilizzazione collettiva. Sì, esatto. Diciamo che un'altra sede che è particolarmente presa di mira è il numero 30, insomma ricordiamo anche il 30 quest'anno è stato oggetto di questo tipo di aggressione, insomma è sfondato la porta, nonché costantemente viene messo qualcosa nel lucchetto che rende impossibile aprire la sede, quindi bisogna di nuovo tagliare tutto quanto e comprare nuovi lucchetti. Insomma il 30 e il 22 sono sedi politiche diciamo particolarmente prese di mira, e quando nel comunicato si dice che questo è proprio un tentativo di espulsione dalla via di una certa di alcuni soggetti in particolare, ci trova molto d'accordo. Ormai negli certo, anni abbiamo... perché si sovrappone una situazione di speculazione immobiliare a una di chiamiamola intolleranza politica, possiamo definirla così, non saprei. Però le due cose sicuramente si sono sovrapposte e c'è questo tentativo. Sì, sì, infatti, e comunque appunto è la situazione di questo territorio, lo dice anche il comunicato, è nota a tutti e tutte, poi magari sarà anche nostra premura approfondire bene di che cosa stiamo parlando. Intanto, insomma, questa è la situazione al momento. È importante, insomma, secondo noi, partecipare, anche solo passare, comprare un biglietto della Riffa o esprimere solidarietà a questa sede che, appunto, lo ricordiamo, è stata anche negli anni veramente vitale per il movimento femminista romano in tante forme, ha ospitato anche assemblee cittadine quando la Casa Internazionale non era, diciamo, un luogo agibile, e ancora adesso la Casa Internazionale ha dei, diciamo, non sono spazi propriamente... ecco, facilmente agibili, così come è il 22. Per cui, insomma, noi ovviamente pensiamo che sia un patrimonio importante, insomma, per tutte e tutti nel movimento romano, ma appunto non solo. E quindi invitiamo ovviamente tutte quante a venirci a trovare, a passare venerdì 13. Dalle 20, sempre quindi nello spazio del 22 di Via dei Volsci, e al di là del fatto che ci sarà la cena vegetariana e vegana, ci sarà questa Riffa, i biglietti costano 3 euro un biglietto, 5 euro due biglietti, e ci saranno dei bei premi. Ecco, infatti, questo è quanto, e potete anche venire a vedere con i vostri occhi e le vostre orecchie, perché non mancheranno neanche in questo caso, ecco, l'atteggiamento dei vicini nostri che appunto tra ci slogan conforterà moltissimo. Ma non è molto invitante così. No, vabbè, però se sa, facciamo così, massa. Esatto, bisogna stare unite insieme, poi insomma, chissà.